Sud. Racconti del Sud non è il titolo di un libro, ma due fatti di cronaca dalla provincia di Avellino. Nelle montagne di Serino, un giovane pastore è sparito dalla circolazione. Da mesi nessuno sa niente, neanche le sue pecore, dicono ironicamente in paese. I carabinieri continuano a cercarlo. Più di uno pensa che sia morto, caduto in un burrone o colpito da un fulmine. Mentre a Mercogliano, una donna sui 40 anni, un nome noto della Mercogliano Bene, è stata arrestata dai carabinieri in un supermercato dopo che il servizio di vigilanza l'aveva scoperta con due pezzi di parmigiano reggiano nascosti nella sottoveste. Reggio Calabria, l'ospedale Morelli è un edificio che ospita alcuni uffici staccati della questura. Da più di 30 anni è stato trasformato in un accampamento di nomadi in condizioni igieniche pessime. La situazione è precipitata alcuni mesi fa, quando una bambina di 6 anni è morta in seguito ad una infezione polmonare. Dopo 8 anni è finita la latitanza di Raffaele Bavero, 45 anni, arrestato poche ore fa a Caivano, in provincia di Napoli, dai carabinieri del comando provinciale. Raffaele Bavero appartiene alla clan Marfella. Molto intensa l'attività di controllo del territorio da parte della questura di Napoli. Giovanni Farzati, di Reporter Associati, per Amisnet Radio. Email giovannifarzati@hotmail.com.